questo noi ci pensiamo poco, però è stato nominato più volte Malpensa e effettivamente, cioè, quello è stato il modello, quello è stato il modello di tutte queste grandi opere del post-Tangentopoli, cioè, è stato anche detto prima, insomma, un nuovo, nuovo modo di ritornare al finanziamento dei partiti, eccetera, eccetera. Cioè, noi siamo una regione molto sfigata da questo punto di vista, perché c'è ben poco da... Se la Val di Susa è messa male, qua si è messi sicuramente peggio. In più, diciamo, il clima non aiuta, il clima, diciamo, sociale. Quindi, vabbè, la differenza è... Allora, io vengo dalla provincia di Varese. La provincia di Varese attualmente è l'unica che è riuscita a fare tutto quello che c'era da fare. E non solo senza opposizione, ma col plauso. Sì, sennò... E anche di prendere i voti della Lega. Il senso PD, credo che sia Varese, uno dei peggiori PD. Beh, nel senso, vabbè, se vogliamo parlare di quello, vuol dire, i fautori dell'inciucio PD Lega Marantelli. Sono Marantelli, cioè il PD a Varese, e Maroni, quello che all'epoca era la Lega di Varese, cioè, poi nel frattempo, forse, eccetera, eccetera. Quindi, chiaro, la situazione era quella, però voglio dire, Pedemontana, che è un'opera obbrobriosa, cioè una cosa fuori dal mondo, equiparabile a Malpensa, però 100 volte, perché Malpensa è lì, c'è più di Montana, sono 100-200 km, quello che sono, cioè l'unico posto dove l'hanno fatta è a Varese. Dall'altra parte non sono ancora riusciti neanche di tanto a iniziare, ma perché? Ma non è un caso, cioè Maroni, me lo diceva ieri sera, è riuscito a trovare i soldi, era tutto fermo, è riuscito lui a trovare i soldi per far andare avanti un altro anno, perché non stanno neanche pagando gli operai che hanno lavorato, ma... Se che l'ha fatta lui la rapina. Perverso. E comunque, no, su questo discorso delle grandi opere, effettivamente il nostro territorio non è... cioè, ha posto forse i precedenti perché queste cose si replicassero altrove, ed è comunque il centro. Da questo punto di vista nel centro, cioè perché qua siamo al centro della linea Torino-Lione, della linea Genova-Rotterdam, più o meno ci passa anche la Napoli, della logistica, degli interporti, delle autostrade, l'Expo e Malpensa, cioè Malpensa è al centro di tutta questa regione qua. Quindi noi guardiamo la Val di Susa, ma faremo meglio a guardarci addosso, perché... effettivamente capisco che sono il primo a stare forse più in Val di Susa che qua, però effettivamente qua le possibilità di movimento magari sono inferiori, però come significatività del nostro territorio all'interno di questi progetti non è secondo a nessuno, ecco.